e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E benvenuti a tutti ad una nuova trasmissione, ad una nuova puntata di Cuore e Denari, che oggi mi vede in conduzione da sola. Come sapete, con Nicoletta ci alterniamo spesso e volentieri per tutta una serie di ragioni ed impegni. Oggi però speriamo appunto lo stesso di degnamente portare avanti la parte di cuore del nostro programma, perché torniamo su un tema che ci è molto caro. Fra un po' ve lo anticipo, quello delle malattie rare, per cui stiamo portando avanti un percorso appunto da 2 anni che ci ha visto impegnate in prima fila nella divulgazione di tutte le attività anche di ricerca che si fanno nell'ambito appunto delle malattie rare. Adesso ci arriveremo, parleremo naturalmente anche di tanti altri argomenti. Come sempre, il lavoro sarà il focus di Denari di questa mattina. Ripartendo dalla puntata fatta circa 15 giorni fa, vi racconterò che cosa è successo in queste 2 settimane di provocazione sull'argomento del chi cerca non trova. Parleremo naturalmente anche di borsa. Allora, 800 24 00 24 vi ricordo come sempre il numero verde per intervenire in diretta su tutti gli argomenti che vi proponiamo nella nostra trasmissione. Partiamo subito. Partiamo molto velocemente con l'andamento dei mercati finanziari, che anche oggi hanno in Europa una giornata molto interessante, del tutto contrapposta a quella che si è verificata ieri sera a Wall Street, dove il Dow Jones ha messo a segno il 12° record di fila, la serie temporale più lunga dal 1987. Se oggi continuerà la sua corsa, il Dow Jones farebbe la storia, perché nei 120 anni dell'indice non ci sono mai state 13 sedute di fila da record. L'Europa oggi invece tentenna: Parigi sulla parità, Francoforte -0,12%, Londra -0,08%, Milano -0,10%. I migliori titoli di Piazza Affari: il Banco BPM +1,22%, Leonardo Finmeccanica +1,17%, spinge grazie anche all'iniziativa del presidente americano Trump, che intende proporre un budget federale con un aumento storico delle spese militari, quindi tutte le società del settore a livello internazionale ne beneficiano. Eni +1,11%, Banco Mediolanum in rialzo di 1 punto, in calo invece di 1,5% STM, Poste Italiane -1,24%, Yux e Net-a-Porter -1,15%. Per quello che riguarda i temi di cuore, che tra un po' apriamo, come abbiamo anticipato ieri con Nicoletta, è la giornata delle malattie rare, un appuntamento che è giunto alla sua 10ª edizione, che ormai dal 2008 si svolge nell'ultimo giorno di febbraio. Una giornata nata con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle malattie rare, promossa in tutta Europa dalla European Organization for Rare Disease e coordinata in Italia dalla Federazione Italiana Malattie Rare Onlus, Uniamo. Ha come obiettivi principali il raggiungimento di una piena consapevolezza di che cosa siano le malattie rare. Naturalmente l'obiettivo è anche quello di combattere le diseguaglianze dell'accesso alle cure nei diversi paesi e far sì che le malattie rare vengano riconosciute come una priorità di sanità pubblica, alzando, se possibile, il livello di attenzione su un problema che riguarda circa 6.000 malattie rare, 6.000, con un'incidenza fra il 6 e l'8% della popolazione europea. Il tema di questa edizione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare è la ricerca, fondamentale per fornire ai pazienti le soluzioni e le risposte di cui hanno bisogno, e noi proprio di ricerca parleremo tra poco. Ma prima... Mi chiamo Gioia, come mia mamma. Mi ha dato il suo stesso nome perché le ha portato fortuna nella vita. Quando avevo 7 anni mi è stata diagnosticata la sindrome di Ehlers-Danlos, una malattia rara caratterizzata dalla iperelasticità dei tessuti della pelle. Semplicemente, dentro e fuori, il mio corpo è fragile. Dovrei restare immobile. Invece, ho scelto di stare in movimento, di muovere ciò che ho dentro e ciò che ho fuori dal corpo. Amare, suonare, combattere. Con qualche accorgimento in più. Perché nessuno sa essere forte come una persona fragile. Quella che avete sentito è la storia di Gioia, una ragazza affetta dalla nascita dalla sindrome di Ehlers-Danlos. È una storia che è stata raccontata da Cristiana Capotondi, che è in linea con noi, che noi salutiamo con grande piacere, attrice e regista, ha affrontato per la Fondazione Telethon proprio il tema di questa sindrome. Cristiana, buongiorno e grazie, buongiorno. Un grande piacere. Buongiorno, buongiorno a voi. Averti grazie con per... noi. No, grazie per aver trasmesso radiofonicamente questo pezzo di Gioia, che in realtà è parte del nostro cortometraggio, ma è soprattutto tutto frutto della sua penna, perché è una ragazza che scrive, ha scritto delle bellissime cose riguardo alla sua esperienza, quindi abbiamo usato parte della sua creatività per costruire la sua storia. Certo, Cristiana, come ti sei avvicinata al mondo delle malattie rare? Io sono arrivata a conoscere Teleton dalla parte, secondo me, più interessante di questa meravigliosa realtà, che è la visita al TGET, al San Raffaele di Milano. Il TGET è il centro di ricerca. Teleton ne ha diversi in tutta Italia, ospita ricercatori chiaramente italiani e ricercatori che arrivano da tutto il mondo. Quindi ho, come dire, affrontato immediatamente la parte scientifica e la parte di eccellenza italiana. E quindi, insomma, in maniera anche abbastanza poi fiera, devo dire, sono andata a conoscere anche singolarmente gli effetti di questa ricerca su i pazienti già trattati. In particolare stavano trattando l'anemia mediterranea di un bambino che arrivava dalla Siria, con storie anche molto toccante, immagino, infatti, familiari molto delicate. Se è vero che la vita è fatta di incontri, Cristiana, il tuo incontro speciale poi è stato con Gioia. Il risultato lo abbiamo sentito prima. Ce lo vuoi raccontare? Sì, beh, la storia di Gioia è una storia sicuramente di una, come dire, vita un po' faticosa nella ricerca di una vita come la viviamo tutti. Gioia fa grande fatica a vivere la propria vita senza limitare le sue passioni, le sue avventure, le sue esperienze. È una ragazza di 34 anni che, come tutti, ha voglia di vivere, si è sposata, chiaramente stanno ragionando attorno all'ipotesi di diventare genitori, e quindi il raccontare la sua storia è stato molto interessante, ma anche molto complesso, perché è un filo che la divide da quelli che apparentemente ci sembrano dei soggetti normodotati. Abbiamo cercato di raccontare con delicatezza questo filo sul quale lei cammina ogni giorno tra normodotati e invece persone che devono avere delle attenzioni particolari, proprio perché affetti da malattie rare che però visivamente sono poco chiare e impattano a livello di deambulazione meno di altri casi. Certo, rare da ogni punto di vista, proprio perché intanto molto poco diffuse e quindi invisibili per questo motivo, poi rare anche proprio nella manifestazione dei propri effetti sulla persona, appunto qualche volta invisibili, ma invece per la persona che vive queste patologie effetti spesso appunto drammatici nelle conseguenze, Cristiana. Questo è un ragionamento molto corretto sulla vita di Gioia, sulla sindrome di Ehlers-Danlos. Ed era proprio per questo difficile renderlo in immagine, quindi abbiamo cercato di trasferire la Gioia, insomma il suo nome è anche portatore di dell'essenza stessa, una gioia di vivere tale per cui questo cortometraggio è pieno di leggerezza, di voglia di vivere, però allo stesso tempo dovevamo raccontare questa difficoltà finché arrivasse alle persone la straordinarietà di questa vita, tra virgolette, normale, e anche perché arrivasse alle persone la necessità che c'è di fare ricerca attorno a delle sindromi che apparentemente sono meno impattanti, ma che poi invece logorano quanto una malattia che visivamente ci sembra di riscontro immediato. Era peraltro la sindrome che aveva Paganini, quindi aveva diciamo una ha una linearità così un po' da artista questo tipo di sindrome. Anche Gioia è una musicista, quindi in qualche modo lavorare anche attorno alla musica che è presente all'interno del nostro cortometraggio ci sembrava simbolico. Grazie Cristiana anche per averci raccontato tutto questo aspetto della tua personale ricerca e documentazione in questa patologia. Qualche volta gli artisti mettono la faccia in certe campagne a 360 gradi con grande impegno. Vuoi dare un ultimo messaggio oggi alle persone che ci ascoltano? E naturalmente ribadisco le nostre congratulazioni per il tuo impegno. Mi verrebbe da dire, siamo in linea un po' con il dibattito di questi giorni da Oscar per tutto questo, Cristiana, insomma, un ultimo messaggio ai nostri amici che ci seguono da casa. Ma sì, io inviterei veramente tutti chi ne ha la possibilità a mettere il naso nella realtà Teleton, un po' anche al di là di quella che è la sua parte più conosciuta, ovvero la maratona televisiva su Rai 1, perché è veramente una realtà scientifica che ci deve rendere fieri, che ospita molti ricercatori italiani e che contemporaneamente a livello terapico nell'applicazione rende la vita più felice e più semplice a tantissime persone. Credo che abbia a che fare con quello che molto spesso chiamiamo anche la perdita, la fuga dei cervelli, credo che abbia a che fare anche con la necessità di tenere in Italia le eccellenze che siamo all'estero. Molto spesso con il Telethon possiamo essere queste eccellenze in Italia. Grazie Cristiana, grazie molte. In bocca al lupo per tutto, per tutta la tua carriera, e ricordiamo appunto attrice, regista, affrontato per Fondazione Telethon il tema della sindrome di Ehlers-Danlos. Adesso noi ci fermiamo, c'è il traffico, ma ritorniamo sulla attività di Fondazione Telethon. Continueremo a parlare di malattie rare, di ricerca, e ci faremo spiegare proprio come funziona l'attività dei ricercatori. A tra poco. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Cuore e Denari. E allora ben ritrovati dopo il bellissimo racconto di Cristiana Capotondi. Ritorniamo alla decima giornata delle malattie rare e continuiamo a parlarne, in particolar modo dal punto di vista della ricerca, con la dottoressa Francesca Pasinelli, direttrice generale di Fondazione Telethon, che salutiamo con piacere. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito anche quest'anno. Grazie a lei per averci dato l'opportunità di ripetere anche quest'anno questo progetto per il secondo anno di fila, Più Unici che Rari, un progetto che nasce per parlare di ricerca, di cura, di speranza, di resilienza, ma anche di quotidianità, che per una persona affetta da una malattia rara, per la sua famiglia, è un regalo grande. E sono contenta, appunto, lo dico anche da parte di Nicoletta, che la dottoressa Pasinelli sia tornata oggi con noi. Partirei da una frase che si legge sul sito di Telethon: essere generosi è una vostra scelta, essere trasparenti, e qui è Telethon che parla, è un nostro dovere. Credo che la trasparenza stimoli, dottoressa Pasinelli, la generosità, e la storia del vostro successo lo dimostra. Penso di sì, penso che la trasparenza serva, perché è la prima condizione per creare un patto col donatore, ed è quella di dire al donatore perché raccogliamo soldi, dove vanno i soldi raccolti, come li impieghiamo e quali sono gli obiettivi che perseguiamo. Certamente parte del nostro successo col donatore in questi ultimi anni è anche legato ai risultati che abbiamo ottenuto, perché quei donatori che hanno visto che nell'arco di 25 anni di attività sono state anche messe a punto delle vere e proprie cure, quindi non solo programmi di ricerca molto belli, ma altre cure, e beh, certamente questo ci ha aiutato a costruire una relazione di fiducia e anche di costante speranza. Prima di entrare, dottoressa Pasinelli, nei vostri laboratori di ricerca, per farci raccontare da lei che cosa fanno i vostri ricercatori, intanto ci fa una fotografia della vostra attività, lo stato attuale. Quanti progetti state seguendo? Quanti sono i laboratori impegnati? Ma in questo momento abbiamo in corso 323 progetti di ricerca, che occupano circa altrettanti laboratori, forse un po' meno, perché alcuni progetti sono condotti contemporaneamente da più laboratori. E questo significa migliaia di ricercatori, perché intorno ad un progetto lavorano mediamente 4-5 ricercatori, tutti a vari livelli della loro carriera, da quello principale che è titolare del progetto a tutti i più giovani ricercatori che sono o in training postdottorale o che stanno facendo il dottorato. Quindi una rete veramente molto significativa e importante di ricerca. Il percorso della ricerca scientifica verso la cura è molto lungo, è impegnativo, oltre che costoso, ecco perché c'è bisogno dell'aiuto di tutti, appunto, e del sostegno finanziario alla ricerca. Si inizia dalla ricerca di base, quella che si fa in laboratorio, e poi si prosegue con le sperimentazioni. L'ultima fase della ricerca, quella clinica, sperimenta poi le terapie individuate sui pazienti. Molti ricercatori Telethon impiegano anni del proprio lavoro per assicurarsi che una terapia sia efficace e sicura, e ogni passaggio è cruciale, fa parte di un percorso ben delineato che riflette, dottoressa Pasinelli, il vostro metodo di lavoro. Per chi non avesse mai sentito parlare di quello che fate, ce lo vuole descrivere? Ma credo che l'abbia descritto già perfettamente lei. La ricerca scientifica è fatta di tante tappe, sostanzialmente si deve partire cercando di comprendere a fondo i meccanismi alla base di una malattia, perché se si capisce qual è il meccanismo difettoso è possibile anche immaginare di correggerlo. E così la correzione avviene prima in laboratorio e quando si è certi che nei modelli di laboratorio una strategia terapeutica funziona, allora bisogna testarla sul paziente. Ecco, questo, come lei ha detto giustamente, è un percorso lunghissimo che può essere anche di una quindicina d'anni e non è detto che lo stesso ricercatore lo faccia tutto, lo percorra tutto, anzi in genere c'è un passaggio, è come una staffetta che viene fatta fra ricercatori, perché ciascun passaggio richiede delle competenze specifiche e quindi quando si supera una fase in genere passa ad un'altra che diventa appannaggio, diciamo, va in carico ad altri scienziati. Quindi c'è una rete di lavoro molto consapevole e molto difficile che coinvolge molti molti scienziati. Teleton agisce un pochino come il regista, come il direttore di un'orchestra. E quindi garantiamo che questo processo evolva in direzione della cura, perché se la ricerca scientifica è il mezzo con cui noi pensiamo di raggiungere il nostro risultato, non vi è dubbio che per noi l'obiettivo sia la cura, sia arrivare al paziente. Quindi noi lavoriamo perché ci si arrivi. Certo, adesso andiamo anche al tema delicatissimo dell'assegnazione dei fondi Telecom, ma una curiosità, dottoressa Pasinelli, i vostri ricercatori invece come li reclutate, selezionate? Ci si candida autonomamente perché si ha una vocazione verso questo tipo, tra virgolette, mi passi il termine, di mestiere, oppure li cercate voi perché hanno un tasso di specializzazione molto particolare? Ah, certamente. Dunque, intanto il reclutamento degli scienziati avviene o attraverso dei bandi, per lo più attraverso dei bandi, e quindi, così come per i progetti di ricerca, anche la valutazione del ricercatore viene fatta da una commissione di esperti, quindi di altri scienziati che intervistano, fanno una lunga intervista e soprattutto valutano il curriculum dello scienziato, valutano che quello che lui ha fatto in precedenza garantisca circa la possibilità di lavorare bene in Italia e in autonomia. Nel caso poi degli istituti di ricerca che noi gestiamo direttamente, lì la selezione avviene ancora una volta attraverso una ricerca che viene fatta dal direttore dell'istituto e poi è sempre una commissione di advisors, quindi di valutatori, che vaglia le proposte e ne considera l'adeguatezza a quello che dobbiamo fare. Non dimentichiamo poi che tutti questi ricercatori sono sottoposti periodicamente a delle revisioni, quindi in itinere vengono sottoposti a valutazioni sempre di esperti che magari visitano i loro laboratori e valutano l'andamento delle ricerche, e questo è ovviamente molto importante anche perché in alcuni casi ha implicato il fatto che venisse interrotto il rapporto con uno scienziato che non si dimostrava produttivo, oppure invece venivano assegnati ulteriori fondi e veniva proseguito il contratto proprio perché la ricerca che stava conducendo era molto promettente. L'ultimo tema, dottoressa Pasinelli, abbiamo 2 minuti di tempo prima di salutarci, l'assegnazione dei fondi Telethon e il rigido processo di selezione che viene affidato ad una apposita commissione medico-scientifica che si avvale di un metodo molto speciale, quello della peer review, la revisione tra pari. In che cosa consiste? Consiste nel reclutare dei ricercatori, degli scienziati indipendenti, cioè che noi non intendiamo finanziare, che valutano i progetti invece che vengono sottoposti alla nostra attenzione per il finanziamento. Un po' quello che dicevo prima, ogni progetto prima di essere finanziato riceve una stringente valutazione da parte di un gruppo di questi scienziati, i quali ci informano e ci dicono se questo progetto, un tale progetto sia buono, addirittura sia molto competitivo internazionalmente, sia innovativo, riguardi qualche cosa che non è già stata fatta ma che ha buone possibilità di riuscita. E questo, non è un sistema che di per sé è necessariamente sempre perfetto, ma di sicuro ci aiuta a minimizzare il rischio d'errore e ci garantisce che stiamo intercettando nel tessuto della ricerca nazionale quanto di meglio esista. Allora, tutti i donatori possono conoscere come sono distribuiti i fondi raccolti ogni anno dalla Fondazione? È sufficiente andare sul sito e tutte le informazioni sono puntualmente e correttamente riportate. Dottoressa Pasinelli, posso, io la ringrazio. Posso chiederle solo, sì, una cosa? Prima, certo, di chiudere, io, visto che siamo in chiusura di questa settimana con questa giornata per le malattie rare, vorrei ringraziare di cuore lei e Nicoletta Carbone che ha già l'anno scorso dato, sì, il via a questo progetto al nostro fianco e che ci ha permesso di dare voce a tante delle nostre attività e quindi a renderci sempre più vicini agli italiani che ci seguono e che ci donano. Ma noi abbiamo tutta l'intenzione di replicare anche l'anno prossimo con più unici che rari. Dottoressa Pasinelli, ci consideri a vostra totale disposizione. Grazie di cuore. Grazie molte. A Francesca Pasinelli, direttrice generale di Fondazione Telethon, c'è il giornale radio, noi torniamo subito dopo. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Dal 4 marzo al 13 maggio ascolta giovani talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Cuore e denari. Ma che razza di lavoro fai? Hai un contratto? O non l'hai avuto mai? Beh, probabilmente qualcuno si trova anche in questa condizione, appena uscito dall'università, caccia del primo contratto di lavoro, un vero e proprio miraggio per qualcuno. Allora, perché partiamo così oggi? Come ricorderete, almeno lo spero, circa due settimane fa abbiamo organizzato una trasmissione, una delle tante, sul tema del lavoro, per provare a capire perché domanda ed offerta non si incontrano, anzi a volte sembrano proprio fare a pugni. In preparazione di quella precedente puntata ho fatto un esperimento inserendo un post su LinkedIn, questo social network a prevalente uso professionale, anche se adesso sta cambiando un po' il suo indirizzo, introducendo proprio questo dibattito, e si è scatenato il finimondo, perché come potete immaginare il tono delle considerazioni è assai diverso. Da una parte ci sono aziende che fanno davvero fatica a soddisfare le proprie necessità, hanno aperte decine di posizioni per cui non trovano professionisti adeguati. Dall'altra parte c'è la marea umana di disoccupati che non si collocano o ricollocano perché non hanno le competenze giuste, trovano il muro delle aziende che non hanno tempo e spesso non hanno risorse per investire in formazione o riqualificazione delle persone. Alla base comunque, se da una parte ci sono imprenditori lungimiranti che prendono dalla scuola, formano le persone per tenerle poi il più a lungo possibile, stabilizzarle, farle crescere, dall'altra ci sono quelli invece bloccati nel concetto di volere persone solo con esperienza, pregiudicando così opportunità per molte persone. Il problema c'è, è forte, quindi abbiamo ritenuto di tornare su questo argomento caldissimo con tre ospiti questa mattina, ma soprattutto anche con tutte le vostre testimonianze. Se vorrete, all'800 24 00 24 le metteremo a disposizione dei nostri interlocutori, appunto per capire che cosa ne pensano. Intanto saluto e ringrazio, è collegato telefonicamente con noi un grande amico di Cuore e Denari, Walter Passerini, oggi responsabile delle pagine del lavoro della Stampa. Walter, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Ha scritto tantissimo su questo argomento, ha scritto tanti libri, ha lavorato naturalmente anche con noi, è stato curatore della nostra rubrica Job 24 e quindi sentiremo la sua opinione, ci faremo fare anche una fotografia del fenomeno da come lo vede lui. Con noi in studio invece questa mattina Eva Maggioni, Head of Field Sales and Customer Service di InfoJobs, e poi prometto che tradurremo in italiano questa carica perché so già che cominceranno a tempestarmi di messaggi. Dottoressa Maggioni, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie mille. InfoJobs è la piattaforma online numero uno in Italia per l'offerta di lavoro, ha oltre 7 milioni di profili e 80.000 aziende iscritte. I numeri sono recenti, corretti? Numeri di settimana scorsa. Benissimo, una piattaforma tecnologica disponibile anche su app, e tutto questo naturalmente per favorire un matching, un incontro quanto più concreto possibile fra lavoratori ed aziende. Più o meno lo stesso lavoro che fa anche Corner Job Mauro Maltagliati, founder e CEO Italia di questa piattaforma che è esclusivamente per dispositivi mobili dedicata alla ricerca di lavoro. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie di avermi invitato. Voi avete, come dire, intermediate i messaggi di nomi del calibro di Adecco, Randstad, Italy, Geox, Amnesty International, Generali, Manpower e Angelini. Quindi voi intermediate anche le offerte degli intermediari. Noi ovviamente cerchiamo di far Parto trovare... Parto con lei perché mi ha incuriosito subito questo aspetto. Certo. La nostra è una caratteristica prettamente tecnologica, in quanto, come si diceva, il mercato del lavoro si sta spostando sempre più sul digitale e in particolare sul mobile, perché il traffico digitale in Italia al 75% è lì ed è lì che da cui noi partiamo. Infatti, tecnologia sarà anche una delle parole d'ordine di questa mattina, per quanto indigesta a molti ancora, in realtà da qui oggi tutto parte, tutto muove. Ricordo ancora 800 24 00 24, il numero verde per gli ascoltatori che stanno già scrivendo su WhatsApp al 349 238 6666 e vedo già il primo messaggio che mediamente arriva sempre quando facciamo trasmissioni di questo tipo: i curricula non arrivano agli imprenditori perché sono, colpa vostra, intercettati dalle agenzie interinali, le quali non li girano alle aziende, alle ditte. E vabbè, insomma, c'è pure questo, adesso ne parleremo. Walter, io volevo partire con te, perché a questo argomento hai dedicato tantissima ricerca giornalistica, ne scrivi moltissimo, è un tema caldo, è il tema del momento, la domanda e l'offerta che non si incontrano, contrariamente a tutte le teorie economiche, questo è un campo in cui questo incontro appunto evidentemente avviene oggi con molta difficoltà. Ti ho raccontato un po' tutto quello che è stato il presupposto del programma di questa mattina, ci aveva molto incuriosito, poi ve ne riproporrò anche un piccolo brano, la testimonianza di un imprenditore veneto che ci aveva chiesto aiuto: mi servono questi profili, non mi arriva neanche mezzo curriculum, aiutatemi a divulgare questo messaggio. Insieme a quell'imprenditore veneto, Walter, in Italia ce ne sono tanti nelle medesime condizioni, e però magari i profili adeguati stanno in tutt'altre parti d'Italia, non vogliono spostarsi. Insomma, il tema c'è. Qual è secondo te il punto più evidente di questo problema? Il punto più evidente è che, nonostante, diciamo, la grande offerta di strumenti anche nuovi, oltre ai vecchi uffici di collocamento, nonostante questo io dico, è un'affermazione, che c'è la solitudine di chi cerca lavoro, perché comunque è un individuo molto spesso atomizzato, molto spesso solitario, è un bricolor della ricerca del lavoro, ma c'è anche la solitudine dell'imprenditore, perché gli imprenditori non riescono a volte a raccontarci i profili di cui hanno davvero bisogno. Ecco, io credo che insomma l'incontro di due solitudini non fa una coppia felice. Il problema è cercare da un lato di favorire gli intermediari professionali e anche ripartire col concetto di politiche attive del lavoro, perché il 2017 è l'anno delle politiche attive, quindi anche servizi pubblici. Il problema è che noi comunque continuiamo per due terzi a utilizzare il passaparola, le conoscenze, insomma, e questo ce lo dobbiamo dire. Secondo punto, quello che sta emergendo in modo assolutamente evidente è la forza di una parola che si chiama esperienza. Ecco, anche quando noi mettiamo molti incentivi per gli imprenditori, per assumere le persone, e si è visto con gli ultimi incentivi del cosiddetto Job Act, si è visto come gli imprenditori, per esempio, non abbiano scelto i giovani attraverso quegli incentivi, ma abbiano scelto persone, diciamo, ultra 35 anni e anche ultra 50 anni. Cosa vuol dire questo? Che chi può dimostrare di avere una esperienza, che poi profilata significa anche, come dire, competenze specifiche, molto tecniche e così via, è più avvantaggiato. Chi ha, per esempio, almeno 5 anni di esperienza, sicuramente è più avvantaggiato di chi non ha nessuna esperienza. Questo apre il capitolo dell'alternanza, dell'apprendistato. Esatto, se nessuno gli dà l'opportunità di fare questa esperienza, questi 5 anni, chi mai potrà accumulare? Però, Deborah, il problema è come si fa, come dire, tecnicamente anche, senza però assegnare per esempio alle tecnologie una sorta di determinismo tecnologico, per cui automaticamente le persone non è che si incontrano sulle diverse piattaforme, sugli aggregatori e così via. Quindi c'è sempre una facilitazione, questa facilitazione si chiama servizi al lavoro. Ecco, io credo che il diritto al lavoro oggi sia un diritto ad avere dei servizi efficaci ed efficienti per il lavoro. Parlo dei centri per l'impiego, parlo delle agenzie private, perché vedi, nessuno ha mai formato, per esempio, gli 8.000 dipendenti dei centri pubblici per l'impiego a fare un altro mestiere, a fare un mestiere diverso da quello a cui erano abituati. Quindi per fare le politiche attive ci vogliono le gambe, ci vogliono gli operatori competenti. Lo sa benissimo Maurizio Dal Conte, che oggi dirige l'ANPAL. Walter, tu lo sai appunto che sta provando deserto, a far dialogare. Esatto, l'ANPAL nel deserto. Esatto, che ci ha raccontato proprio da questi stessi microfoni di come i centri per l'impiego sul territorio, quello che sta a Bergamo non sa neanche lontanamente quello che fa appunto quello di Brescia, e se c'è un candidato lì magari che va bene, se c'è un candidato a Bergamo che va bene per un'azienda di Brescia, questi due centri per l'impiego non hanno neanche un database adeguato per poter dialogare, per cui immaginate cosa possa succedere sul territorio se cerchiamo il supporto di questi. È un grande bricolage, io lo chiamo un bricolage, ecco. È un fai da te che bisogna davvero far smettere e cessare. Esatto, se fosse un puzzle, però insomma i pezzetti da mettere insieme ci sono, il problema è che questo puzzle non è in grado di farlo al momento nessuno. Speriamo intanto che Dal Conte ci riesca. Andiamo allora ai servizi al lavoro, diceva Walter Passerini. Eva Maggione, InfoJobs Italia, voi avete pubblicato un vostro recente osservatorio, lo fate periodicamente per la verità, insomma che cosa ci racconta rispetto al tema che poniamo questa mattina, a prescindere dal fatto che continuano ad aumentare in maniera molto vistosa gli annunci, le candidature presso il vostro portale, esattamente come succede per quello di molti altri vostri competitor? Dunque, la cosa che noi abbiamo visto in modo significativo è che negli ultimi due anni, quindi dal 2014 al 2016, le offerte sono cresciute in modo significativo e di conseguenza anche i candidati. Da parte nostra ci mettiamo, visto che comunque siamo un player, il primo player in Italia per quanto riguarda la domanda e l'offerta di lavoro, ci sentiamo anche un po' la responsabilità sociale di educare il mercato, che in questo momento si divide fra candidati e aziende, proprio perché il mismatching di questi due mondi è evidente anche per noi. Quindi per quanto riguarda la parte di aziende, che per noi è molto importante, c'è sicuramente un tema di comunicazione del famoso employer branding, so che ne avete parlato, che sta a significare come faccio a attrarre i migliori candidati e come faccio a trattenerli, perché poi sicuramente è un tema anche questo importante, di come vanno a pubblicare l'offerta di lavoro, perché è il primo incontro con i candidati, e soprattutto la consapevolezza da parte delle aziende di dove sono questi candidati. Cioè, se faccio un esempio molto semplice, se io sono un'azienda che ha un contenuto digitale molto, molto forte, cerco delle professionalità che sono scarse sul mercato, è evidente che il nostro ruolo di educatore sta a dire: attenzione, tu puoi pubblicarlo l'annuncio, ma con tutte quelle caratteristiche lì sarà difficile che tu sia in grado di trovarlo. Quindi sarà molto importante che tu utilizzi un altro sistema che nel nostro caso semplifica la richiesta un pochino, quantomeno, o riduci le pretese. Se, o riduci le pretese, oppure fai caccia di questo candidato, quindi utilizzi un altro strumento che è il database, e quindi inserisci tutte le competenze che ti servono, e quindi il numero di candidati sarà limitato, sarà un bacino di candidati che già sta lavorando, e quindi tua azienda dovrai essere così seduttiva da portartelo in casa. Quindi le dinamiche del mercato del lavoro sono diverse, quindi ci sono i candidati attivi, che sono quelli che cercano un nuovo lavoro o il primo lavoro, e i candidati passivi, che sono quelli che in realtà il lavoro ce l'hanno però potrebbero valutare. E quindi questa è la prima parte di formazione che noi abbiamo la responsabilità anche di dare all'azienda. Quindi, dall'altra parte poi ci sono i candidati. I candidati hanno, come ben sappiamo, o l'ossessione per candidarsi a qualsiasi cosa, e quindi dall'altra parte c'è l'azienda. Invio dei curriculum a pioggia senza un minimo criterio. Senza un minimo ed criterio. Ed è un errore, perché è così, insomma, il curriculum che viene fatto circolare a pioggia, il responsabile delle risorse umane di un'azienda se ne accorge. Se ti arriva un curriculum con quattro righe, significa che insomma puoi far niente e tutto, e quindi neanche ti prende in considerazione, senza una motivazione precisa. E soprattutto quello che noi consigliamo attraverso la nostra pagina consiglio ai candidati è quello di creare dei curriculum che siano allineati alla richiesta dell'azienda. Faccio un esempio molto semplice. Brava, andiamo di esempi concreti. Io, Eva, ho un'esperienza molto lunga nel commerciale e contestualmente ho anche un'esperienza buona sul customer support, quindi sull'assistenza clienti. Se l'azienda sta ricercando un profilo di responsabile assistenza clienti, io metterò in evidenza nel curriculum che mando a questa azienda la mia esperienza con i risultati che ho raggiunto nel ruolo di responsabile assistenza clienti. Viceversa, se cercano... Non sarà l'altra parte a prevalere, esatto, ovvio. Esatto. Ciò non significa scrivere dei curriculum falsi. I curriculum devono essere sempre congruenti e coerenti con la nostra esperienza, ma andando a sottolineare le competenze migliori rispetto a quella posizione. Un altro aspetto fondamentale è la lettera di presentazione, che deve essere personalizzata, anche perché il responsabile delle risorse umane dall'altra parte deve sentirsi ingaggiato a leggere poi il curriculum vitae. Consideriamo che il mondo digitale ha aperto tutta l'Italia rispetto a quello che prima era estremamente locale, quindi ci sono tantissime candidature e quindi il selezionatore ha veramente poco tempo, si tratta di 15-20 secondi per valutare se un candidato chiamarlo o non chiamarlo, quindi è evidente che è fondamentale da parte dei candidati scrivere curriculum vitae che siano assolutamente coerenti con l'esperienza ma allineati alla richiesta. Insomma, abbiamo avuto tante indicazioni utili e concrete. Sentiamo, prima di andare all'esperienza appunto di Corner Job di Maltagliati, Federico Da Lucca, la prima testimonianza che raccogliamo oggi all'800240024. Benvenuto Federico. Buongiorno, grazie. Nulla, io volevo raccontare la mia piccola esperienza personale, che è un'azienda, diciamo, multinazionale, e si dice che sia come responsabile che seleziona persone, si cercano sempre purtroppo persone con esperienza che abbinano anche la caratteristica ovviamente di essere giovani, poi però quando si va sul RAL, ovvero sullo stipendio, lì si cade subito e quindi secondo me c'è un'incongruenza di fondo. Si cade subito perché, Federico, ci sono delle pretese troppo alte da parte del candidato e l'azienda non è in grado di soddisfare, l'azienda vuole... Cioè, cotto e mangiato, vuole l'esperienza, però non la vuole pagare in maniera adeguata. Perfetto, ecco. Certo. Non riconosce spesso la professionalità, purtroppo, dei candidati anche, e quindi si trova in difficoltà. Io lo vedo nella mia azienda, esperienza personale, poi magari, tornando al discorso, si fa andare in pensione una persona e la si fa rientrare al lavoro. Ecco, quindi secondo me siamo proprio all'apice di un... qualcosa che non torna, di un mercato, a mio modo di vedere, malato. Federico, grazie. Del quale però, insomma, di questi aspetti c'è piena consapevolezza fra tutti coloro che si occupano di far in qualche maniera dialogare domanda ed offerta. Allora, Mauro Maltagliati, Corner Job, la tua azienda, partiamo dai vari punti che avevamo deciso di affrontare con lei, partiamo proprio dal numero 4. Il tema dell'azienda che pretende, ha necessità di portarsi dentro una persona con esperienza, non ha risorse per poterla formare, insomma, l'abbiamo raccontato in mille modi questo tema. Detto ciò, però, è anche vero che l'azienda deve imparare a guadagnarsi il miglior talento. So che questo è un messaggio a cui lei tiene particolarmente. Come possiamo fare in modo che cambi un po' l'approccio di atteggiamento da parte del mondo imprenditoriale italiano, che ci rendiamo conto è fatto di piccole e medie imprese che oggi fanno una grande difficoltà, non riescono neanche ad andare sui mercati internazionali, devono provare a resistere in questo difficile mercato domestico e affrontare anche tutto questo. Non dimentichiamoci anche la legislazione che cambia continuamente, per cui devono anche, purtroppo per loro, gestire questi argomenti, dal Jobs Act a tutto il resto. Tornando su quanto dicevamo prima, in Italia ci sono circa il 90-95% delle aziende sono PMI e da varie ricerche sappiamo che la maggioranza di queste PMI non sono digitali, quindi fanno fatica a relazionarsi con quello che potrebbe essere il talento al di là del passaparola. Quindi consiglio numero uno è svecchiare gli strumenti di ricerca e capire che oggigiorno il 75% del traffico digitale avviene attraverso applicazioni mobile, neanche attraverso siti nel web paese delle della aziende. Manifattura questo è possibile, secondo assolutamente lei? Assolutamente. Consideriamo per favore che proprio il tipo di target da manifattura, quindi l'operaio, non ha più un PC a casa, ma è facilmente raggiungibile attraverso gli smartphone che sono in mano a tutti oggigiorno. Noi abbiamo una penetrazione superiore alla media europea di dispositivi mobili, inferiore invece dal punto di vista digitale, quindi la maniera di raggiungere quei talenti è sicuramente attraverso comunicazione mobile. Poi bisogna rendersi conto che la gara per i talenti è internazionale. I giovani di oggi, soprattutto i cosiddetti millennials, quindi coloro che sono nati dagli anni 80 in poi, sanno che il mercato europeo è aperto a tutti, quindi possono andare in Germania, in Olanda, in Francia, in Spagna e non solo in Italia. E qui apriremo un altro grande dibattito, perché da una parte c'è chi si strappa le vesti per questo fenomeno e la chiama fuga di cervelli che poi non rientrano, naturalmente c'è chi invece la vede, come probabilmente questo gruppo che è qua racchiuso in questo studio, come necessità ineluttabile in questo momento per andare a fare un po' di esperienza, se necessario poi riportarsela a casa, ma perché no continuare a vivere nel mondo, perché tanto questo è. Io sono uno di questi casi, ho vissuto e lavorato all'estero più di 10 anni e prima o poi sono tornato in Italia a fare l'imprenditore qui, che è più difficile rispetto ai paesi dove ero stato prima. Io ero in Germania, in Spagna, quindi insomma le leggi sono un po' più complicate, però io volevo tornare a casa e a casa sono tornato. Le esperienze all'estero sono arricchenti dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista della cultura del lavoro e dal punto di vista personale, perché per esempio la Germania è un po' più meritocratica dell'Italia e quindi le persone sono più portate alla performance, il che è utile per le aziende italiane. Quindi direi rendersi conto che il lavoratore non è più in attesa della chiamata come era prima, ma bisogna ingaggiarlo, e questo vale per qualsiasi livello di lavoratore, vale dall'operaio generico fino all'ingegnere super specializzato in qualche programma di IT particolare. Insomma, no, mi fa piacere che stamattina abbiamo dato un po' più bacchettate alle aziende rispetto ai lavoratori, quindi per noi il concetto del chiusi non vale, del selettivo, anche se qualcuno poi un po' di difficoltà magari nello spostarsi, come dicevamo, ce l'ha. È chiaro che tutti vorremmo stare vicino a mamma, avere il lavoro sotto casa, però insomma credo che anche questo lato del dibattito ormai sia completamente superato e possiamo accantonarlo. C'è Roberto dalla provincia di Monza e Brianza, direi che lo trasferisco nella seconda parte della trasmissione, 800 24 00 24, per continuare a parlare con noi di lavoro. Avevo anche promesso che avevi letto un po' di commenti che mi sono arrivati in queste settimane, ovviamente di tenore diversissimo. C'è chi se la prende con la legge, c'è chi se la prende con le aziende che vogliono esperienza, insomma i temi sono tanti. C'è addirittura chi suggerisce se si facessero anche dei buoni dialoghi con lo psicologo, con i lavoratori. Poi ve lo leggo, adesso non trovo più questo post, ma insomma c'era anche questo taglio dato a questo dibattito. Ce ne sono veramente tanti di interessanti. A tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Cerchiamo in continuazione nuove risorse, perché l'azienda sta andando molto molto bene. Ci preoccupiamo di assumere fin dal primo giorno le risorse con dei contratti a tempo indeterminato. Malgrado questa ricerca, noi ci troviamo poi ad avere poche risposte e quindi pochi curriculum. Per 100 euro al mese in più, o 50 euro, o 150 euro, decidono un'azienda rispetto all'altra. Non capisco l'opportunità di crescita che potrebbero avere, ma quando magari valutano solo esclusivamente il brand dell'azienda o l'aspetto economico dell'azienda. Questo era Marco Bonesini, l'amministratore delegato di TrueBlue, questa società di Verona che opera con servizi informatici per il settore farmaceutico, quindi un ambito molto particolare, ma da lui nasce tutto. Ci ha chiesto aiuto, io cerco, non trovo, curriculum non mi arrivano, aiutatemi a diffondere il mio messaggio. Non è venuto neanche, non è andato da InfoJobs o da Corner Job, è venuto a Radio 24, anche noi ci siamo candidati a fare un po' da agenzia, però magari ecco diramata da una radio nazionale, forse il messaggio poteva arrivare in maniera diversa. Da lui abbiamo proprio deciso di intraprendere questo percorso e di fare questa ricerca personalissima del che cerca non trova nel mondo del lavoro in questo momento, perché abbiamo una disoccupazione giovanile al 40%, quindi tanti candidati, esperienze probabilmente diverse, formazioni anche scolastiche molto differenziate, tante aziende che cercano e non occupano delle caselle appunto scoperte. Stamattina ne stiamo parlando con i nostri ospiti. Walter Passerini, collega appunto espertissimo del mondo del lavoro, ha lavorato anche con noi oggi, responsabile delle pagine del lavoro della Stampa, poi Eva Maggioni per InfoJobs Italia e Mauro Maltagliati per Corner Job, due piattaforme che operano con modalità differenti ma insomma che hanno questo obiettivo di fare questo match tra aziende e lavoratori. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Prendo un'altra testimonianza di un altro ascoltatore per poi commentarla insieme. Roberto dalla provincia di Monza Brianza, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno ai suoi ospiti. Niente, io vi ascolto sempre, quindi ogni tanto ho anche piacere di intervenire, no? Come avevo scritto anche nel WhatsApp, avevo chiamato anche tempo fa quando c'era il rappresentante di Adecco, no? Perché io più che altro chiamo per la storia di mia figlia, no? Mia figlia è diplomata con lode, le due lauree con lode alla Cattolica di Milano, è giornalista, ha disegnato scritto all'albo dei pubblicisti, lavora da 3 anni per dei giornali locali, quindi chiaramente ha un po' di esperienza. Diciamo, è iscritta ai vari siti, appunto Mercurius, Adecco, InfoJob, eccetera, eccetera, tutti questi, riceve ogni giorno, diciamo, tutte le medie aggiornamento sulle possibilità di lavoro, ovviamente. Lei inserisce quelli chiaramente riguardanti la sua esperienza, quindi addetta stampa, addetta comunicazione, giornalista, redattrice, non la richiama nessuno. Lo so, Roberto, qui guardi, senza scomodare le agenzie, posso dirle la mia, è un settore assolutamente saturo. Per tutti quelli che leggono i giornali sanno quello che sta succedendo al Sole 24 Ore, insomma tutti i grandi gruppi editoriali si stanno completamente riorganizzando, trasferendo al digitale. Detto questo, allora, un settore abbastanza tradizionale, quindi non parliamo di una competenza iperspecifica, vi chiedo che cosa ne pensate, che cosa può fare questa ragazza, perché a questo punto il tema è capire come può riorganizzarsi anche concettualmente, culturalmente, per poter mettere a frutto quello per cui ha studiato e per il quale però è un ambito, Eva Maggioni, per cui adesso l'offerta è in difficoltà, diciamolo con un eufemismo, ecco. Ma io credo che la cosa che potrebbe fare questa ragazza è quello di cercare di riplasmare le proprie competenze, i propri studi, orientandosi verso l'azienda, nel senso che quello che noi vediamo è che sicuramente le grandi aziende o le medio grandi aziende, quindi quelle che hanno circa 250 o più di 250 dipendenti, hanno sempre maggiormente bisogno di tornare a fare il famoso employer branding e anche lo stesso branding, quindi il posizionamento del marchio e anche dei valori aziendali. Quindi io credo che sarebbe buono che questa giovane donna si orientasse verso un settore che non è così ristretto come potrebbe essere quello delle redazioni, che comunque certo. È molto piccolo, andando a portare la propria esperienza rispetto alle aziende. Quindi ormai tutte le aziende vogliono fare il famoso storytelling, quindi vogliono raccontare la propria storia in modo tale da diventare attrattive sia rispetto ai candidati ma anche rispetto certo. al mercato del lavoro, quindi reinventarsi un po' con le proprie competenze, andando poi a raccontare le storie invece che magari di un mercato dell'azienda. Walter, invece, il giornalista, alla candidata giornalista cosa suggerisce? Ma se è la sua passione, che la persegua fino in fondo, tra gioie e dolori, come ognuno di noi può ricordare quando era più gli giovane. Inizi sono stati difficili per tutti, ecco. E dopodiché però effettivamente c'è bisogno di comunicazione, ecco. Il problema è che se i comunicatori non sono all'altezza dei fabbisogni di comunicazione, è chiaro che ci siano delle strozzature. Se questa ragazza certamente vuole fare la giornalista di un quotidiano cartaceo, ecco, non avrà grandi chance. Se però si immette in un percorso in cui sviluppa le sue competenze di comunicatrice anche attraverso tecniche nuove e così via, beh, in questo caso fa un servizio oltre che a se stessa anche a un'impresa, perché le imprese hanno grandi bisogni di comunicare. Veramente, guarda, più si comunica e peggio ci si capisce, e quindi voglio dire, c'è anche il problema per esempio del raccontare un'azienda in termini non agiografici, non pubblicitari, non trionfalistici. La presentazione, no, al mondo dei talenti della propria impresa richiede delle competenze speciali. E poi c'è tutta l'area della pubblica amministrazione, che tra l'altro è in deficit per quanto riguarda tutte le leggi anche di integrazione, no, di nuovi comunicatori per i rapporti col pubblico e così via. Ecco, io credo che davvero è finita l'epoca delle professioni industriali e stiamo entrando in un mondo che è il mondo digitale, che è il mondo dei servizi e così via. La domanda di servizi sarà assolutamente in crescita, compresa quella della comunicazione. L'altra cosa che volevo dire però, che perché i giornalisti sono un po' il quarto punto, no, di questo discorso, ci sono i candidati, ci sono le imprese, ci sono le agenzie di intermediazione e poi ci sono i giornalisti. Cioè, chi racconta bene quello che succede? Ecco, il problema è che, vedi, non esiste, Debora, tu lo sai, non esiste una riconosciuta specializzazione per un giornalista che voglia occuparsi di lavoro. Io lo so sulla mia pelle, la conosco bene questa storia. Il problema è che i giornali si occupano saltuariamente e in chiave emergenziale dei temi del lavoro. Pensa a tutto quello che si è detto sul caporalato fino all'altro ieri. Sì, ma guarda, anche il Jobs Act, no? Si fa l'esame, sì, lo si mette in croce, no, ogni mese a seconda del numero dei nuovi contratti di lavoro, no, che sono stati siglati. È un derby continuo, ci sono le tifoserie, no? Si parla di Jobs Act, tutti contro, tutti a favore. Insomma, il problema è che una seria professionalità comunicazionale da parte dei media intanto devono occuparsi in modo fisso, in modo strutturale di questi temi, perché se no, come io mi ricordo all'oratorio quando giocavamo a pallone, tutti correvano dove c'era la palla, una volta era dalla parte del campo, poi la palla andava di là, tutti a correre di là come dei matti. No, il problema è che la professione del comunicatore, anche attraverso i media, deve alzarsi con quell'asticella che si alza per tutti, quindi le competenze vanno anche per noi, per diventare davvero un accompagnatore, ecco, delle solitudini delle persone e delle imprese verso la ricollocazione, certo, verso nuovi posti di lavoro, verso la creazione di lavoro. Esatto, non prendere le parti ma raccontare proprio questo tema per quello che è. Allora, Mauro Maltagliati, lasciamo adesso da parte i giornalisti, ci siamo incensati abbastanza. C'è Alessandro Dall'Ohio che ci scrive: buongiorno, sono neolaureato magistrale in ingegneria, ho ottenuto come primo lavoro una collaborazione con un'università americana, che sulla carta è un'opportunità incredibile, però lui ha già i primi dubbi. Questo genere di esperienze vengono viste come delle perdite di tempo o alla pari di un lavoro professionale qualora volessi tornare in Italia? Voi cosa mi dite? Che cosa ci dice anche questo dubbio che serpeggia nella coscienza, insomma, nella testa di questo ragazzo? Per me è un'opportunità incredibile. Per lui però dice: ma insomma, non vorrei perdere tempo, poi torno in Italia e magari le poste non mi assumono. Mi sento di dirgli: caro Alessandro, continua sulla tua strada laddove hai iniziato, perché un'esperienza all'estero è sempre spendibile in Italia. Incredibile. È sempre spendibile in Italia ed è un'esperienza di vita che ti porterà ad avere un passo e una capacità di adattamento, che poi è la chiave, che abbiamo già sentito qui prima da Eva, poi da Walter. Spesso viene fuori questo discorso del: sta cambiando il mondo del lavoro, è cambiato il rapporto tra aziende e lavoratore, la ricerca del talento e le tecnologie. Quindi una delle caratteristiche più importanti è l'adattabilità, e chi è andato all'estero, chi ha avuto esperienze, diciamo, in paesi anglosassoni oppure in Asia, spesso e volentieri ha un'agilità mentale poi per riadattarsi a nuovi lavori che non è comune, e questo viene, diciamo, dalle aziende viene valorizzato molto. Si chiamano le cosiddette soft skills, cioè quelle capacità e quelle qualità che non vengono certificate attraverso un esame o attraverso una laurea, ma che oggigiorno fanno la differenza quando ci si candida un lavoro tra un candidato e un altro. Alessandro, persevera, tieni duro e vedrai con che biglietto da visita poi rientrare in Italia, se mai poi volessi rientrare, perché magari hai visto mai che trovi negli Stati Uniti l'occasione della tua vita e decidi di fermarti lì. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Al rientro, dopo il traffico, vorrei che sia da parte di InfoJobs che di Corner Job mi faceste un po' un punto della situazione sui settori più vivaci, quelli dove adesso è il caso di andare a proporsi e a candidarsi, perché so che per esempio nell'osservatorio di InfoJobs c'è una grande dinamicità, questo mi ha colpito molto, nei servizi ambientali. Proprio noi non ne sentiamo mai parlare di questo mondo, invece ci sono delle grandi opportunità. Il settore immobiliare invece, leggevo negli osservatori di Corner Job, continua ancora a guidare il mercato del lavoro, quindi che tipo di professionalità si cercano? Ne parliamo tra pochissimo. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com. Vi presenta... Cuore e denari. Lavoro di noia, lavoro di fame. Ho 53 anni e sono un geometra, ho oltre 30 anni di esperienza, ma questa diventa in Italia la mia croce. Lavoro da bestia. Non sono visto più come un senior, come un tecnico che può apportare vantaggi. Le imprese di costruzioni in genere cercano solamente giovani a cui affidare, ahimè, anche mansioni molto importanti, delle responsabilità civili e penali che magari neanche conoscono. Lavoro da chiavi, lavoro da iena. Questo era Carlo, ci aveva telefonato nella trasmissione appunto precedente, abbiamo deciso di rimandarlo in onda, quindi una grande esperienza, disponibilità a spostarsi, lo ha fatto per tutta la vita, quindi questo non rappresentava in questo momento un limite al proseguimento, però over 40 fermo assolutamente, nessuna azienda disposta ad ascoltare la sua candidatura. Volevo solo ricordare che il giovane che ci scrive dall'Ohio è Matteo, letto Alessandro perché nel post precedente aveva salutato Alessandro Milan, ma è Matteo appunto che sta in Ohio e noi gli auguriamo il meglio possibile. Allora, i settori particolarmente dinamici. Eva Maggioni, InfoJobs, i servizi ambientali avete voi decretato nel vostro ultimo osservatorio. Di che tipo di professionalità c'è bisogno in questo ambito? In che maniera sta crescendo? Facciamo modificare al volo i curriculum di chi ci ascolta. Ma la cosa che noi abbiamo visto è che i settori ambientali stanno crescendo a tripla cifra da 3 anni ormai. E la cosa che in realtà vanno ricercando sono tutte figure di staffing, quindi gli amministrativi, personale commerciale, via dicendo. Perché? Perché probabilmente i servizi all'ambiente hanno grande interesse in Italia, quindi ovviamente nascono delle nuove aziende, quindi queste nuove aziende hanno bisogno di strutturarsi. Quindi non è necessario essere ingegnere ambientale per entrare in questi settori. Sicuramente sono dei settori diversi rispetto a quelli a cui noi siamo abituati, ma sono dei settori che danno delle grandi opportunità, proprio perché comunque sono come se fossero delle start-up, quindi sono nuove, hanno bisogno di staffarsi proprio, e quindi danno possibilità a vari profili di inserirsi all'interno di queste nuove aziende. Mm-hmm. Invece per quello che riguarda i vostri monitoraggi, quelli di Corner Job e Maltagliati, dove c'è particolare dinamismo, in quali settori è il caso di guardare in questo momento per chi magari ha le vedute un po' ampie, non si limita a dire voglio lavorare solo per quel settore per cui ho studiato, quindi persevero, vado avanti, ma chi invece magari ha deciso di ampliare un po' i propri orizzonti, magari ha anche sulla carta un buon curriculum per poterlo fare e magari non ci ha pensato. Io mi riaggancio a quanto detto dalla collega, più che un settore io direi quali sono i profili più ricercati, e il commerciale rimane il profilo più ricercato in Italia. L'immobiliare che citavi prima è semplicemente una questione di quantità, numero di agenzie immobiliari sul territorio, ergo anche numero di ricerche, questo vale anche per le assicurazioni. Dal punto di vista però dei candidati, tornando a quanto diceva Eva, c'è un interesse molto forte sul terzo settore. E si può andare a fare il commerciale in un settore, perché poi anche lì la maggiore richiesta sono sempre commerciali alla fine, o amministrativi appunto, in un settore che magari si tende ad avere una, come dire, per il candidato può avere una connessione maggiore con i propri interessi nella vita. Quindi, tornando a bomba, il commerciale rimane il profilo più richiesto, dopodiché c'è molta richiesta sempre in ambito commesse e quant'altro. Quindi il grosso della popolazione non è fatto da ingegneri, è fatto da persone che hanno lavori normali, e i lavori normali sono il commerciale, l'amministrativo e la commessa, il commesso. E questi che lavorano che spesso aperti nel weekend e qualche volta considerano un po' limitante questo aspetto, perché dobbiamo anche dircelo, perché a tutti piace stare a casa nel fine settimana, quindi a fronte magari di una persona che lavorerebbe ben volentieri 7 giorni su 7 perché magari non lavora da un anno e adesso ha bisogno, c'è anche invece selettivo perché nel weekend si dedica alla famiglia. Poi però c'è il problema dell'ultimo miglio che si diceva all'inizio, cioè bisogna saltarlo quell'ultimo miglio all'inizio, magari facendo anche qualcosa che non è esattamente perfettamente in linea. Tornando alla ragazza che vuole fare l'addetta stampa, io mi sento di consigliarle di dire che il mondo della comunicazione è cambiato, oggi si chiamano blogger, influencer, social media manager, e quello è il tuo indirizzo, cara mia ragazza, perché le redazioni, come si diceva, si stanno smontando e vivono di freelance oggigiorno, non vivono più di persone che vengono prese, e quindi lì ci si poi si costruisce da soli attraverso tecnologie una professionalità che le aziende hanno bisogno come il pane, perché là fuori non ci sono. Certo. Intanto vi suggerisco, adesso non so se ce la faremo a sentirla, c'è un'ascoltatrice da Firenze che voleva intervenire, ma oggi magari non ce la facciamo, perché sono pronti anche Alessandro da Bolzano e Massimo da Roma, che chiedeva, e quindi qui spingo anche all'innovazione, la vostra attività, se esiste un'agenzia dedicata ai possessori di partita IVA. E qua bisognerebbe dedicare invece un po' più tempo, visto che spingiamo molto spesso anche verso la, come dire, non dico libera professione, l'imprenditorialità, non sono tutti start-upper mal tagliati, cioè qualcuno magari deve aprire una partita IVA perché banalmente fa l'architetto o l'ingegnere, e oggi la libera professione è l'unico modo per poter esprimere questa tua vocazione, per cui forse fare un focus, no, maggiore. Ma noi su InfoJobs ci sono delle offerte che ricercano liberi professionisti, per cui non sono esclusi. Evidentemente però, come dire, poi ci si scontra un po' con la platea di candidati che in realtà dice: ah no, ma io non voglio aprire la partita IVA, dicendo. Quindi come dire, in Italia chi avrebbe voglia di aprirla? È un mondo difficile. Infatti, Walter, voglio sentire anche la tua su questo. Walter, sì, Passerini. Sulle partite IVA sicuramente ormai ci sono anche delle associazioni professionali molto importanti, ne cito una, ACTA, che sta a Milano, sì, perché sono i lavoratori, diciamo così, del terzo tipo, insomma, sono consulenti, sono persone che svolgono una professione di tipo intellettuale, spesso per le imprese e per le pubbliche amministrazioni. Questa è una via che non può essere considerata né residuale né minoritaria, ecco, è una via sicuramente da sviluppare, quindi si tratta di mettere però delle tutele per questi professionisti, perché il lavoro dipendente ha le sue, ma il lavoro autonomo ne ha molte di meno. E poi ci sono, dal punto di vista dei settori, oltre al digitale, all'ambiente e così via, ricordo che poi alla fine noi siamo il paese delle 4A, perché l'alimentazione, l'alimentare, l'arredamento, il design, arriva al salone del mobile tra poco, l'abbigliamento e l'automazione sono le nostre 4A su cui abbiamo fondato il Made in Italy. Questa è ancora un bacino che crea una domanda ancora molto forte. I servizi alle imprese di alto profilo, non è un caso che nell'osservatorio InfoJob sia citata la consulenza manageriale e la revisione, solo a Milano 3-4 mila assunzioni all'anno vengono fatte dalle Big Five, insomma, no? Da queste società, diciamo, di consulenza elevata, che hanno bisogno di giovani e li assumono con contratti di apprendistato. Non abbiamo detto nulla sulla formazione, ma questo è importante, perché c'era Massimo da Roma che voleva raccontare che ha difficoltà nel trovare personale valido perché le scuole non formano bene i ragazzi, e d'altronde come volete che ve li sfornino pronti a poter essere insegnati? Qui la scommessa che dobbiamo vincere è quella della formazione post diploma, ecco, perché noi abbiamo una domanda delle piccole e medie imprese che va soddisfatta. Noi, se non abbiamo un ordinamento di 3 anni dopo il diploma di tipo tecnico professionale, noi non riusciremo mai a soddisfare la domanda di tutti quei piccoli e medi imprenditori che cercano persone e non li trovano. Alessandro da Bolzano, non riesco a sentire neanche lei, voleva raccontarci che ha molta difficoltà nel trovare personale per il suo albergo, lo vuole italiano, gli rispondono solo stranieri. Dall'altra parte, tutto ciò che è mondo della ristorazione, alberghiero, ristorazione, io appunto pensavo che fosse saturo, ne abbiamo parlato anche 15 giorni fa, invece il tema è che qua le aziende alzano un pochino l'asticella e chiedono anche qua grande professionalità, preparazione ed esperienza. 5 secondi, Maggioni? Sì, esperienza soprattutto lingua. E come sappiamo, come dire, il popolo italiano non è molto orientato, infatti, ad imparare le lingue straniere. Maltagliati, voi con Corner Job intermediate anche questo settore moltissimo, molto tradizionale. Alessandro, vada un po' su questi due portali e magari troverà anche le persone che fanno al caso suo. Allora, trasmissione purtroppo terminata anche oggi, ma ovviamente qua ci ritorniamo perché dobbiamo farlo. Grazie a Mauro Maltagliati, grazie mille, ad Eva Maggioni, a Walter Passerini. Noi grazie Walter, con Cuore e Denari torniamo domani. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Buona giornata.